Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati Fumetti a Sinistra, che ancora una volta parla al femminile e di fumetti, e lo facciamo con le interviste di Patrizia D'Antonio, come sempre nell'inesorribile miniera del blog Donne con lo Zaino, un'intervista che va a Claudia Segre, che è presidente di questo progetto Liberi di Vivere con la Thinking Foundation, un progetto che appunto mette in chiarissima luce l'importanza del femminile. Per la rubrica Donne e Fumetti oggi vogliamo dedicare uno spazio che riguarda sempre assolutamente le eroine e le autrici, anche destinatrici dei fumetti, che però si sono prestate o comunque sono trattate qui nell'ambito di un progetto molto interessante che si chiama Libere di Vivere, ad opera e cura della Global Thinking Foundation. E quindi ho qui la presidente Claudia Segre, che è intervisto volentieri, intanto per spiegare in due parole in che consiste, perché questo tema dei fumetti nell'ambito delle vostre attività, che sono poi quelle di prevenzione e di formazione anche comunque di contro la violenza economica. Sì, infatti il progetto Libere di Vivere è il primo progetto che parla ai ragazzi e alle ragazze, alle famiglie, alla cittadinanza di violenza economica utilizzando il fumetto, un linguaggio universale che si adatta a tutte le generazioni, perché tutti noi siamo legati in qualche maniera al ricordo di un fumetto, ed è passando nella storia del fumetto da quelle donne che lo hanno caratterizzato, da Wonder Woman a Mafalda fino ai giorni nostri, a Lucrezia, alle eroine Marvel, che troviamo tutti quei valori dell'eroismo al femminile che caratterizzano la storia del nostro tempo. E poi abbiamo aggiunto i nostri fumetti, quelli di 14 novelle grafiche, parlando di donne, da Eva Calvino, la prima donna ad avere in Italia una cattedra di botanica, alle donne dell'epoca di Virginia Woolf, che con una piccola rendita economica hanno potuto fare la differenza nel loro percorso di vita e di autodeterminazione, fino alle eroine dei giorni nostri, dalle artiste come Tamara Dell'Empica a una sportiva incredibile come Billie Jean King, che si è battuta per la parità salariale, la parità dei diritti nell'ambito delle diversità. Queste donne emblematiche rappresentate in fumetto rappresentano per i ragazzi in italiano, francese, in inglese la possibilità di approfondire storie, di acquisire appunto valori, informazioni e quegli esempi di vita che sono anche parte del loro percorso di costruzione, di approfondimento di tutte quelle che sono le possibilità di migliorare la propria partecipazione sociale e di agire sui propri diritti, come hanno fatto queste eroine attraverso i fumetti nel tempo. Quindi sono, come dicevi, tutta una carrellata di figure di fumetti noti, come dicevi, da Wonder Woman passando per la nostra Eva Kant e la famosa Mafalda, che insomma rappresenta la prima ragazzina un po' quella contestataria che contesta appunto gli stereotipi di genere, e preoccupandosi insomma di anche di dare una riflessione, uno sguardo sul mondo, sulle ingiustizie, sulle questioni, fino alle passando per Valentina, insomma per tutti quei classici che, come dicevi, attirano i giovani in queste tematiche. Ma parlando di graphic novel, come dicevi, quindi create appositamente da Libere di Vivere, quindi dalla Global Thinking Foundation, che vede il coinvolgimento di tante autrici, autori, artisti, artiste, anche, c'è anche tutta una parte sulla grafica, quindi con meravigliose immagini che devono veicolare, che vogliono veicolare insomma questi messaggi di solidarietà, indipendenza, no? Tutte queste. Sì, ancora una volta l'immagine grafica ci viene in aiuto nel far capire, immaginare che cosa rappresenta una violenza invisibile come quella economica. E lo potevamo solo fare attraverso le storie di queste donne. Ricordiamo ad esempio Zara Hadid, un'architetta iraniana straordinaria. Ecco, tutte queste storie, così come le immagini delle artiste e degli artisti dell'Accademia delle Belle Arti di Torino, ci fanno comprendere come l'espressione grafica non ha età, non ha confini e soprattutto è comprensibile a tutti e a tutte, e questo fa la differenza sul messaggio che vogliamo dare, le riflessioni che vogliamo portare ai ragazzi e alle ragazze, perché siano veramente sentinelle nei confronti della necessità di fare prevenzione sulla violenza e nei confronti di un impegno comune alla eliminazione della violenza di genere e in particolare la violenza su donne e ragazze. Claudia, quindi io ti inviterò a ripetere dove poter trovare maggiori informazioni, a parte degli articoli su Donne con lo Zaino, dove noi abbiamo già fatto, e anche qui nella radio, diversi spot, insomma, su questi, con i vostri contenuti. Ma insomma, voi vi occupate di tante cose, di formazione, ma anche con delle app, attraverso dei certamente progetti. Sul nostro sito www.gltfoundation.com trovate tutte le informazioni attraverso l'app Consapevoli e Indipendenti, l'accesso a tutti i materiali gratuiti e la piattaforma di approfondimento, a tutte le novelle grafiche esposte nelle varie lingue, anche le novelle animate, tra cui l'ultimissima sulla storia di Vittoria Bianco, un'atleta paralimpica che ha portato a casa un bronzo nelle recenti Olimpiadi Paralimpiche francesi, un esempio di resilienza e di partecipazione a quello che è un attivismo sociale delle donne che ci contraddistingue. Benissimo, grazie. Io l'ultimissima questione che volevo porti era riguardo a una delle graphic novel, una storia vera che non abbiamo citato ancora, ma che riguarda, è una storia sul sfruttamento, diciamo, del lavoro femminile riguardo il tabacco. Sì, infatti la prima delle novelle grafiche che affrontiamo con i ragazzi è una storia che trae spunto dalle tabacchine del Salento e dal primo sciopero che ci fu ancora alla fine dell'Ottocento per rivendicare i diritti salariali delle lavoratrici delle tabacchine del Salento. Siamo partiti da questa prima importante manifestazione per i propri diritti per arrivare al giorno d'oggi, così come allora, per una vera equità nei confronti dei diritti di uomini e donne, lavoratori e lavoratrici, che sono poi la colonna dello sviluppo economico del nostro paese e che in genere, grazie alla partecipazione lavorativa femminile, vedono fare una vera differenza nel nostro paese e nel mondo. Bene, ti ringrazio. Allora, a tutti quanti invitiamo a scoprire Libere di Vivere della Global Thinking Foundation. E noi altri lavoratori. La trasmissione prosegue con l'intervista a una importante fumettista, Meredith McLaren, autrice di lavori come Feral e Backcrow, che appunto ti racconta la sua capacità di creare personaggi imperfetti, in particolare donne non particolarmente belle, non particolarmente carine, ed anche cosa significa essere fumettista al giorno d'oggi. Ultimamente mi sto dicendo che va bene renderle anche brutte le donne, dare loro emozioni strane. Infatti ho scoperto, soprattutto con il secondo libro di Black Book, che tiravo fuori espressioni dei personaggi che prima non avrei usato, perché rendevano la loro recitazione più forte. E questo è prezioso nei personaggi femminili. Soprattutto perché nel settore c'erano regole scritte come: non possono essere troppo brutte, non devono mostrare troppo, devono essere carine, devono essere gradevoli, devono rispettare certi standard. Credo davvero che man mano che internet continua a mostrare quanto siamo tutti strani, le persone che prendono le decisioni creative finali capiscono che reagiamo. Positivamente a quasi tutto ciò che è autentico. So comics is my real job. It's the only job I know how to do. Beh, i fumetti sono il mio vero lavoro. È l'unico lavoro che so fare. E cerco, per quanto riguarda il fatto di farne parte del mondo, di rappresentare il mondo che conosco. Soprattutto con il clima politico attuale. Penso a come le mie scelte potrebbero essere influenzate nel caso in cui qualcuno nel mondo notasse il mio lavoro. Ma allo stesso tempo sento che le scelte che faccio sono quelle giuste. E quindi le mantengo comunque. È più come dire: ok, questo potrebbe succedere. Ma ora che so che potrebbe succedere, sono preparata. Più di ogni altra cosa, però, voglio che le persone trovino qualcosa nelle mie storie che le aiuti ad andare avanti. Vorrei consumare più media di quanto faccio in realtà. Scherzo spesso con le persone. Da quando ho iniziato a lavorare nei fumetti, ho smesso di leggerli regolarmente. Ogni tanto leggo un libro, forse ogni 6 mesi o giù di lì. E di solito mi ci aggrappo. Quando trovo qualcosa di davvero unico, questo influenza il mio lavoro. Ma forse conservo l'ispirazione. Che sia un libro o un media per molto più tempo, perché, come ho detto, non ne consumo molti. Cerco però di sapere cosa è popolare al momento e perché è popolare, anche se non mi piace. Perché è utile sapere a cosa le persone reagiscono. Guardo molto velocemente, non si può prevedere cosa vorrà il pubblico tra 3 mesi o 6 mesi. Uno dei libri a cui sto lavorando uscirà solo nel 2029. Non c'è modo di prevedere cosa vorranno allora le persone. Ma se è una storia genuina che racconto al meglio delle mie capacità, troverà il suo pubblico. Devo crederlo, altrimenti non potrei andare avanti. ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Guarda senza parlare, azzurro come te, come il cielo e il mare, e giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai. Provare. La terza parte della trasmissione con Simona di Jucali presenta intervista Federica Verrillo, 26 anni molese, educatrice di scuole primarie e secondarie, nonché ricercatrice, che ci parla appunto del rapporto bambini e famiglia. E poi sentiamo una serie di testimonianze dei ragazzini, cosa significa per loro essere liberi. Puntata abbiamo scelto di ospitare Federica Verrillo, educatrice e coordinatrice pedagogica, con esperienza nella fascia 0-6 e nella relazione con le famiglie. Con lei parleremo di ascolto, voce e diritti. Federica, che cosa significa ascolto attivo con i bambini e le bambine? Praticare l'ascolto attivo con i bambini significa essere presenti e mostrare empatia, cioè mettersi nei loro panni. Noi adulti possiamo calarci nella situazione che sta vivendo il bambino e provare a pensare un po' a cosa sta vivendo in quel momento. Dai più piccolotti si può provare ad offrire il corpo, no? Quindi con la vicinanza e con lo sguardo presente e accogliente. Se ad esempio siamo di fronte a un bambino di 3 anni che piange perché vorrebbe mangiare 2 gelati e il genitore non l'ha permesso, l'adulto può dire tipo: vedo che stai male in questo momento e mi dispiaci. Cosa provi? Tristezza o rabbia oppure un'altra emozione? Poi ci si può avvicinare al bambino dicendo: immagino che sia difficile per te non mangiare un altro gelato. E questo è ascolto. In questa puntata noi parliamo di diritti dei bambini e delle bambine. Allora, puoi farci un esempio concreto di un diritto vissuto a scuola, al nido o in famiglia? Uno dei diritti è anche proprio del bambino è anche di avere l'opportunità di costruire la propria identità. E quindi io ho vissuto diversi contesti educativi che seguono il metodo montessoriano o l'approccio di Reggio, o anche scuole solo che seguono i bisogni del bambino, no? Quindi quando il bambino è libero di scegliere le attività che più gli interessano, in un contesto protetto in cui si sente libero di esplorare, e quindi è proprio in questi contesti che il bambino può sviluppare la sua identità seguendo appunto ciò che più gli piace, garantendo una motivazione, no? Garantendo scoperte e anche autoespressione. Credo che questo sia fondamentale poi proporlo anche in famiglia, laddove si possa, ecco. A proposito di questo, molti genitori ci ascoltano e si chiedono da dove si comincia. Quindi qual è una cosa semplice che noi adulti possiamo fare già da domani per dare più voce ai bambini e alle bambine? Assolutamente offrire un ambiente sicuro e protetto in cui il bambino si può sentire libero di esprimere se stesso. Si può partire pian pianino a fare anche delle domande al bambino o comunque semplicemente stare vicino al bambino che sta vivendo un'emozione forte. Io vedo l'adulto come una guida, come fa un po' un contadino con le proprie piantine. Se ne prende cura e poi le indirizza per favorire la radicazione al suolo. Quindi io direi che il primo passo da fare è stare accanto al bambino e ascoltarlo. Che cos'è per te un diritto? Per me un diritto è una possibilità importante che dovrebbe avere ogni persona. I diritti dei bambini, per esempio, secondo me sono delle specie di obblighi dei bambini. Tipo giocare è un diritto del bambino. se non lo fai giocare si sente male, diciamo. È vivere con dignità. È una cosa che secondo me dovrebbero avere tutti. Una cosa di cui abbiamo bisogno. È importante per noi. Che io devo andare a dormire perché sennò la mattina non mi sveglio. Non lo so io. Secondo me un diritto è una cosa che nessuno ci può vietare di fare. Alcuni genitori o persone non ti fanno fare quel diritto, però tutti devono avere un diritto nel mondo. Allora per me questo è un diritto. Secondo me è diritto tipo a avere una casa, diritto ad avere una famiglia, diritto a mangiare, a essere curato. Quando ti senti ascoltato da un grande? Io mi sento ascoltata soprattutto quando parlo di scuola oppure di quello che ho fatto quel giorno, del mio sport. Se sta parlando, facendo altre cose, no. Se mi sta guardando in faccia e vedo che mi sta ascoltando, sì. Quando le mie maestre mi interrogano su storia e sui compiti. Quando non c'è il mezzo litro. Quando chiedo un consiglio. Mi sento ascoltata tipo quando le maestre mi danno la parola e i miei compagni mi ascoltano. In estate. Ah, quando parlo con mia nonna, mi ascolta. Mi sento ascoltata da un grande quando dobbiamo fare delle cose per scuola oppure quando devo dire delle cose serie. Mi sento molto ascoltata perché io ho confidenza e sento che quella persona è sincera con me. Da mia madre e basta. Dalla maestra. Quando non capisco una cosa glielo dico, lei mi ascolta. No, io ti ascolto le mamme. E lei ti ascolta? Sì, anche il mio papà. E quando ti ascoltano come stai? Bene. Cos'è libertà per te, a scuola o a casa? A scuola quando c'è l'intervallo e a casa quando posso giocare a pallone e queste cose qua. Per me la libertà dovrebbe essere, cioè, che facessero giocare di più i bambini, gli regalassero qualcosa, e questo. È uno spazio aperto. Quando si sciopera a scuola e quando mamma mi fa uscire da sola. Essere liberi per me è fare quello che voglio. Diciamo, perché comunque ci sono delle regole. Alle creazioni ci sono delle regole, tipo non bisogna picchiarsi, non si corre in classe. Però faccio quello che voglio. Tipo se voglio disegnare, disegno e lì sono libero. Io posso fare un disegno a piacere, non è come arte lì. A casa invece c'è più libertà. Perché lì non ci sono le maestre, quindi puoi tirare i pugni ai cuscini se ti vuoi sfogare o puoi leggere. Non devo studiare, li posso leggere. Libertà di parlare, libertà di essere ascoltato. La libertà è quelle che sta molto bene. La scuola perché? Perché posso avvertire, scrivere, disegnare e giocare. Per me la libertà è a scuola perché posso giocare con i miei amici, a ricreazione posso leggere con gli altri. A casa che potremmo fare un pochino di cose che vogliamo sotto la supervisione dei genitori. Invece a scuola sotto la supervisione dei maestri che però ci dicono anche cosa fare. Tipo la libertà che dei bambini giocano con me, disegnare, colorare e studiare. E a casa, tipo, giocare con la mia famiglia. giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio la guerra, per esempio la guerra. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.